E siamo tornati in onda. Lucri e Benny, sono le 16:10 e vi abbiamo appena fatto ascoltare un pezzo. Cosa abbiamo appena ascoltato, Benny? Speciale, speciale come speciale l'ospite che abbiamo qua oggi. Il pezzo è suo, lui si chiama Kadori. E tra l'altro, appunto, noi vi avevamo anticipato che doveva essere una telefonica. Invece poi, mentre eravamo in onda, è arrivata una chiamata ed è riuscito a raggiungerci qui in studio. Quindi noi siamo molto felici che tu ci abbia raggiunto qui. Quindi buon pomeriggio e benvenuto a Radio Città Fujiko. Grazie, grazie mille, ciao. Come anche a voi. Come stai? Tutto ok? Bene. Sei arrivato sano e salvo? Sì, sì, sì. Bene, bene. Fa caldo, nello nostro studio di registrazione ancora di più, però è un piacere averti qui. E tra l'altro tu sei qui anche perché da poche settimane è uscito il tuo nuovo album che si chiama Emisfero Australe. Sì. Presenterai tra l'altro qui a Bologna al Micasa questo venerdì 4 ottobre e tra l'altro tra pochissimo esce anche il tuo nuovo videoclip del tuo secondo singolo, che è appunto speciale, con cui abbiamo aperto la nostra intervista, giusto? Esattamente. Sembra un po' un'interrogazione. Sì, no, scusami. È giusto? L'accendiamo? Confermo. Confermi, confermi. Tra l'altro, se volete vedere anche cosa stiamo combinando qui negli studi, abbiamo appena fatto anche delle bellissime Instagram stories. Esatto, perché noi siamo molto social qua a Città Fujiko. Esatto. Ma però, insomma, dai, parliamo di questo Emisfero Australe che è uscito, dicevamo, da poco, il 20 settembre, e ci racconti un po' come è nato questo progetto. Il progetto nasce nel 2014. Prima di quel progetto scrivevo canzoni in inglese con il nome Ian Vincent. Ok. Dopo aver pubblicato due dischi, in realtà uno pubblicato per una etichetta palermitana che si chiama Woolshop Label e l'altro invece autoprodotto, a un certo punto ho deciso di lasciar stare l'inglese e di provare a scrivere delle cose in italiano. Quindi ho realizzato un'autoproduzione sempre in quell'anno e poi due anni dopo un secondo album per l'etichetta milanese La Bella Scheggia, che si chiama Non puoi prendertela con la notte, e questo è il terzo step. A differenza degli altri due dischi è interamente realizzato in casa. Ok. Quindi proprio veramente lo-fi. Sì. Sì. Hai tutti gli effetti lo-fi. Esattamente. Quindi... E com'è stato, insomma, lavorare in casa propriamente? Beh, dunque, io in realtà ho sempre registrato in casa i miei demo e le mie pre-produzioni, quindi diciamo che a un certo punto ho iniziato a accumulare talmente tanta strumentazione che mi sono chiesto, a questo punto tanto vale registrarlo interamente in casa. E quindi certo, è stata un'esperienza diversa, perché ovviamente si è da soli con il proprio, con la propria stanza, la propria strumentazione, il proprio computer, e tutto quello che si realizza lo si deve realizzare per farlo uscire, non per farlo maneggiare da qualcun altro che poi deve mixarlo. Quindi da un lato è più semplice, dall'altro forse necessita più concentrazione, anche dei limiti che secondo me bisogna autoimporsi per evitare di iniziare a stravolgere tutto continuamente, diciamo, ecco un po' questo è il discorso. Spero di essere stato chiaro. Chiarissimo, io chiarissimo. Ho capito, tu hai capito? Io ho capito. Perfetto. E allora abbiamo capito, quindi abbiamo bene. Capito tutti. Tra l'altro, Emisfero Australe è il titolo dell'album, sì, ma è anche una traccia che è contenuta, sì, nell'album, e diciamo che in quel brano specifico la base musicale fa, diciamo, da padrona del brano, sì, no? E visto che a noi piace molto anche giocare con, sì, i testi delle canzoni, c'è una frase molto bella che dice: ci sono mille cose che avresti dovuto sapere di me, ci sono mille cose che avresti dovuto evitare, ci sono mille cose che avresti potuto fare con me ed altre mille cose che avresti dovuto non fare. Come mai proprio questo titolo? Come colleghi queste cose? Allora, diciamo che questo pezzo è stato il primo brano che dopo averlo scritto mi sono reso conto di aver iniziato a scrivere una serie di nuovi brani, quindi alla fine ho scelto subito di dare il nome del disco in riferimento a questo brano, perché ha un valore un po' simbolico. E, non lo so, è un pezzo molto delicato a livello di tematica, non saprei dirti se ha una vera e propria narrazione, nel senso è più una sorta di trance. Ok. Mi è venuto da dire quelle parole e le ho usate. Ah beh, e secondo me sono anche molto potenti, sono molto all'interno potenti, del pezzo, esatto. Anche come si mischiano insieme, sì, alla base, quindi sì, funziona okay, molto grazie, bene grazie, grazie. Ma anche l'atmosfera comunque è molto interessante, molto potente, perché io direi quasi che è un po' lunare, no? Un po' sospesa, sospesa. Molto. Esatto, sì. vedi che mi hai capito. E so anche che i vari suoni e i loop che hai utilizzato nei pezzi sono stati campionati durante la registrazione e che poi avete cercato, o meglio hai cercato, il più possibile di non manipolare i brani in post-produzione. È una scelta sì, interessante. Di lasciarli puri, insomma. Sì, esatto. Sì, esattamente. Specialmente considerando il panorama musicale attuale, interessante come scelta. Come mai hai scelto di fare così? Allora, la prima cosa è che a un certo punto ho aperto gli occhi e ho realizzato che, ad esempio, solamente tramite YouTube si possono reperire un quantitativo ovviamente infinito di suoni. E si possono prendere dei campioni anche di pochi secondi da qualsiasi cosa e ci si può fare quello che si vuole, quindi gran parte delle voci femminili usate sono state estrapolate da cose varie prese da lì. Alcune sono state invece prese da registrazioni che ho archiviate nel mio computer di, magari, non so, gente che ha registrato a casa mia, ragazze che hanno messo delle voci in pezzi passati e ho tratto dei frammenti da quelle registrazioni lì. E in questo caso è una classica, è un classico frammento tratto da una cantante che ho estrapolato da un filmato YouTube, su cui ho poi applicato dei pitch, cioè dei cambi di tonalità, e il resto è tutto costruito attorno a questo giro molto semplice di chitarra, che era un po', diciamo, il nocciolo del pezzo, è il primo input che ho avuto per scriverlo, tutto ruota attorno a questo giro minimale, insomma. Ho capito. Ma ci puoi anticipare qualcosa del tuo videoclip che sta per uscire? Sì, è un videoclip girato da questa videomaker che si chiama Ellie the Blind, abruzzese come me e come me trapiantata a Bologna. Lei praticamente ha uno stile molto particolare, anche lei nei suoi lavori usa molto l'analogico, nel senso che applica dei filtri che costruisce lei letteralmente utilizzando vetro e altri materiali davanti all'obiettivo della telecamera, e questa cosa mi ha molto affascinato, quindi ho pensato che ci fosse un collegamento, che ci potesse essere un collegamento con la mia musica, e l'ho coinvolta per entrambi i video che ho realizzato per il brano d'estate, che è uscito appunto in estate, e per speciale che appunto è in uscita. E l'idea del video poi è totalmente sua, cioè ho lasciato lei la libertà totale di buttare giù tutto quello che le veniva in mente, insomma. Però quindi giustamente per te è importante che anche a livello, diciamo, grafico e visivo la tua musica venga rappresentata, cioè ti piace che queste due cose vadano di pari passo? Sì, secondo me è fondamentale che tra due persone che collaborano ci sia comunque un fascino reciproco che viene esercitato, no? Perché altrimenti se diventa solo una prestazione così può uscire un bel lavoro, ma non come se qualcuno ci sente realmente qualcosa. Ecco, quindi ci siamo conosciuti, abbiamo visto che si poteva lavorare insieme e tra altre cose stiamo preparando un concerto il 6 novembre in uno spazio che è un cinema teatro a Cattolica che si chiama Snaporaz, dove ci sarà il mio concerto con i suoi visuals creati ad hoc. Che bello! Quindi ricordaci quando a Cattolica. 6 novembre a Cattolica nel cinema teatro Snaporaz si chiama. Segnatevelo e siateci, perché secondo me è una cosa molto interessante, soprattutto quando si uniscono più arti insieme. Io giusto stamattina ero a lezione di semiotica e quindi vedi e quindi stavamo ripetendo e ripassando cos'è il testo, e il testo in realtà è tutto ciò, è tutto, qualsiasi, te lo ricordi anche tu, ricordo, mio incubo. E qui è un'unione di più testi, il testo musicale, il testo visivo, audiovisivo, e quindi si crea una grandissima armonia, ed è bellissima la cosa che hai detto di quando due persone collaborano insieme e si fonde la passione comune, quindi non è solo una prestazione, ma sono due persone che hanno, esatto, una passione in comune, ed è una cosa molto bella, e la passione poi si trasmette sempre in un qualche modo. La passione si sente, sì, quando c'è passione lo percepisce anche comunque chi subisce, diciamo, chi ascolta, fruitore. Chi vede, il fruitore, esatto. Senti come sei forbita oggi, Luca. Vedi, troppa università, troppa semiotica. Ma tornando alla musica, che è la cosa poi più bella di tutte, e soprattutto la musica dal vivo, tu cioè ricordato cattolica, ma noi ricordiamo che anche il 4 ottobre suoni e qui a Bologna. Esatto, presenti Almi Casa. Sì. Quindi sì, ci presenti questo album Emisfero Australe e beh, Bologna è un po' il posto perfetto, no, per questa atmosfera, ma direi soprattutto il Mi Casa è il posto perfetto per l'atmosfera elettronica un po' sognante del tuo disco. E cosa hai in mente per questa serata? Ci dai qualche anteprima, ci anticipi qualcosa di questo concerto? Beh, si prospetta una serata molto carica, nel senso che oltre alla presentazione del mio album, in apertura c'è il progetto di Matteo Trevisan che si chiama Shiba EXP e praticamente è una musica elettronica molto d'atmosfera in cui si fonde l'ambient con la drone music. E dopo a seguire ci sarà Tabash, che è un DJ insomma della scena bolognese che si trova in una fase di ascesa, e per cui sono molto contento che la serata terminerà con le vibrazioni. Mm-hmm. E sarà una, è la festa di San Petronio, quindi comunque è vero, è la festa di San Petronio, la gente uscirà la sera, quindi invito il più possibile a venire e partecipare all'evento. Anche sarà perché bello. È vero, mi è venuto in mente ieri che in questi giorni poi sarà San Petronio e festeggiare con la musica, soprattutto con musica così particolare, come giustamente dicevi tu, con vibrazioni particolari, è il modo migliore. Quindi vi invitiamo tutti voi ascoltatori di Radio Città Fujiko il 4 ottobre al Mi Casa. Noi ringraziamo tantissimo Kadori, è stato molto bello averti qui, torna a trovarci. Certo. Soprattutto ci risentiremo per la tua data di cattolica molto volentieri e noi ti salutiamo, ma perché vogliamo ascoltare un altro tuo brano, abbiamo pochissimi minuti ma ancora giusto il tempo di ascoltare ancora un po' di pezzi. E anche se è già finita l'estate e visto che abbiamo parlato di settembre, che siamo già ottobre, però torniamo un po' nel caldo e ascoltiamoci D'estate.